purtroppo mi ha trasmesso e che io per la verità ho assorbito completamente, come nella scena in cui esplodo il racconto della distruzione degli oggetti. La prima volta che andai da uno psicanalista, lui mi dice: lei è un clestomane. Io, con tutto che ho fatto il liceo classico, brancolavo, dico: ma che vuol dire? Ma dice: lei è un uomo che distrugge gli oggetti. Dico: sì. E allora faccia l'etimologia: iconoclasta, clestomane, cioè la mania della distruzione. Io effettivamente arriverò a una tale esacerbazione, a una tale sofferenza, che sfondo il mobile, butto la tazzina di caffè per terra, ecco. Perché c'è un livello di sofferenza che non si contiene. A proposito però di distruzione, o meglio di decostruzione, tu proprio specifichi in questo romanzo che, decostruendo la figura di tuo padre, e l'hai fatto durante soprattutto la sua malattia, il momento in cui era più debole, mostrava i lati naturalmente più deboli di sé, sei riuscito a svelare la vera personalità di tuo padre. E che cosa hai scoperto a quel punto? Non mi ricordo veramente se lo dico e soprattutto se mi sono avvicinato, però diciamo che l'intento era proprio quello. E cioè l'intento, difatti io parlo proprio del martelletto amico, e dico: quando noi abbiamo tra le mani un malato, non ci stiamo approfittando di lui, non diventiamo voyeur, proprio me lo domando, non siamo sadici, non c'è proprio della curiosità quasi perversa nel penetrare le difese di un uomo che ormai non ha più difese, come il classico Parkinson. Io dico: forse sì, però c'è anche il desiderio di conoscerlo meglio, proprio come hai detto giustamente. Ecco, la mia domanda: l'ho conosciuto meglio? A un certo punto aggiungo addirittura: a volte la malattia cura l'infermiere. Ecco, forse era questo il vero progetto, quindi egoistico, che io coltivavo. Però ecco, ho capito di lui, forse più mi sono avvicinato e più ho capito di lui questo profondo scontento, proprio questo, io dico, è proprio un uomo costruito vicino a un pozzo d'ombra, ecco. È come se avesse avuto il sistema idrico inquinato, come avviene, che ne so, in Campania, dopo che abbiamo visto il film Gomorra. Lui era questo. E dunque, dico, stranamente, a differenza del fratello, che morì ridendo, posso dire, di cancro a 48 anni, e che era un gaudente, un grande medico radiologico, un medico dei poveri, quest'altro fratello, che non ha, credo abbia avuto un raffreddore in 83 anni, è stato proprio un nido di tenebre. Ecco. E io ho cercato di capire perché, e soprattutto ho cercato di capirlo per disinnescarle dentro di me, anche se ormai è troppo tardi, ma soprattutto per evitare di trasmettere questa staffetta avvelenata ai figli. Non vorrei fare, ecco, della psicanalisi così da ombrellone, però è evidente che la figura di tuo padre ha permeato tutta la tua vita, tutta la tua psicologia, tutta la tua proprio emotività, insomma il tuo carattere. Scrivere questo libro ha avuto appunto un valore taumaturgico in qualche modo o no? Me lo auguro. In effetti ogni volta, insomma, diciamo, la psicanalisi nasce come speranza di salvezza attraverso una conoscenza ottenuta tramite la parola. Cioè, detto in altri termini, se tu ricordi il tuo passato e raccontando te ne appropri, dovresti stare meglio. In qualche misura sì, io sono convinto che questo libro in particolare, ma in genere comunque, lo scrittore scriva per salvarsi. Ecco, la scrittura per me è sempre una via di fuga. Grazie a Valerio Magrelli, ora in libreria con Geologia di un padre, pubblicato da Einaudi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Buona lettura da Alessandra Tedesco.